Allora, la numero formula è per numero. prendiamo il nostro peso, facciamo un altro esempio, poniamo di pesare 70 kg. Lo dividiamo per l'altezza in metri, quindi poniamo che uno sia alto 1,75 m, vuol dire 1,75 m, e questa altezza in metri la eleviamo al quadrato, cioè vuol dire moltiplichiamo 1,75 Se per stesso. 1,75, cioè per se stesso. Abbiamo un rapporto, questo rapporto ci dà un risultato. Se avete un risultato compreso tra 16 e 18 o addirittura inferiore a 16, siete sottopeso. Sì. Se avete un risultato compreso fra 18 e 25, siete nella norma. Se avete un risultato superiore a 25, siete in Siete. sovrappeso. Superiore a 30, siete addirittura Quindi obesi. noi dovremmo puntare ad avere un valore tra i 18 e i 25. Esatto.